Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portar. Parte prima, lezione numero 2. La sorgente è Zohar. In questo troviamo l'albero della vita e questo albero della vita verrà invisibilmente dentro di noi. Lui è già con noi, ma non lo sperimentiamo ancora. Non resistere, non cercare di capire con la tua testa. Allora sperimenterai e inizierai a raggiungere una comprensione più profonda e libererai la presa sul nostro mondo. Userai ogni cosa del nostro mondo, ma sarai il padrone e non diventerai dipendente da cosa o da chi o da qualsiasi cosa. Il tuo atteggiamento deve essere che imparerai lo Zohar, che stai facendo qualcosa di speciale. È tutto sul tuo atteggiamento. Nel profondo di te c'è una devozione silenziosa e quella devozione è la preghiera. Ci deve essere assolutamente riposo, sia all'interno che all'esterno. Ben presto entri nella stanza dove inizi a leggere o sentire. Sii consapevole che tu lasci il tuo corpo fisico all'esterno. Non pensare al tuo lavoro o alle cose che devi fare. Se vieni interrotto, chiedi alla persona di lasciarti. In altre parole, assicurati di avere tempo per te stesso, perché è tutto sulla tua correzione. Quando qualcuno ti disturba, non essere arrabbiato con lui o lei, perché non è lui o lei a disturbarti, ma il suo ego. Spetta all'altra persona darti un po' di rispetto. La supplica esterna non funzionerà. Quindi, se inizi a imparare o ascoltare dallo Zohar, sii consapevole del fatto che sei completamente con te stesso, nei tuoi pensieri e in ogni cosa che stai facendo. Asulam significa la scala, proprio come la scala di Jacob, che vide la scala spirituale su cui gli angeli correvano su e giù. Così Yehuda Ashlag ha dato al suo commento il nome La Scala. È intenzione che noi, imparando questo commento, aumentiamo sulla nostra scala spirituale personale, perché riguarda la nostra crescita personale. Nelle altre scuole danno Kabbalah sociale, iniziano facilmente come una madre che nutre il suo bambino prima con il suo seno e più tardi con la carne. Quindi è comprensibile, ma il tempo è così prezioso. Noi andiamo direttamente per la crescita personale, assolutamente. Solo il desiderio per la tua correzione personale come controparte del tuo ego, il tuo io, che è molto alto in questo tempo. Nello stesso modo devi desiderare la tua assoluta correzione personale. Allora i miracoli accadranno. Certo, devi essere sempre gentile ed educato con gli altri, ma solo tu e il Creatore esiste e nient'altro. Lo Zohar è per questa generazione l'unica fonte di salvataggio. In questo tempo non ci sono profeti, non ci sono uomini saggi nel mondo, non è più necessario. Chi può dire che egli è saggio? Solo lo Zohar può offrirci la rotta più breve. Ancora un paio di parole, perché ho già detto che la cattiva inclinazione funziona anche su di me. Si dice che tutte le strade portano alla città di Roma. Puoi viaggiare attraverso l'Oceano Atlantico o andare a Roma dall'Alaska o da Amsterdam. È lo stesso con le correzioni. Arriviamo tutti alla fine, ma quando? Il mezzo di trasporto più veloce ed efficace è lo Zohar. Ho cercato ovunque in ogni cosa, ma è solo lo Zohar. Non lasciatevi ingannare dalla vostra comprensione mentale, leggendo sempre più libri. Naturalmente vi dà un sentimento molto positivo, ma non vi porta nella città eterna. Commento di Yehuda Ashlag. Spiegazione delle parole Sfirot. 10 Sfirot che sono Keter, Kokma, Bina, Kesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malkut. E l'essenza di questi 10 Sfirot è 5. Pertanto ci sono 5 Sfirot. Keter, Kokma, Bina, Tiferet e Malkut. Perché la sfira Tiferet contiene in sé 6 sfirot. Ka, Ga, Ti, Kesed, Gevura, Tiferet. N, H, Y, Netzach, Od, Yesod. Così la Sefirah Tiferet contiene 6 in sé, un totale di 10 Sefirot, e il quarto contiene 6 Sefirot. Sono quindi 5 se consideriamo questi 6 Sefirot come uno solo. Questi 6 Sefirot hanno qualcosa in comune, ecco perché formano un gruppo. Essi sono diventati di 5 Parzufim. Parzuf significa volto, ma nella Kabbalah significa oggetto spirituale, qualcosa che ha 10 sefirot in sé. Ogni cosa che è creata ha in sé 5 sefirot di base, o 10 sefirot, con 6 di tiferet. Esse sono certe radiazioni che noi chiamiamo spettro nel nostro mondo, proprio come la luce che ha 7 colori, 7 sefirot in sé. Presto capiremo tutti i fenomeni nel nostro mondo, capiremo le leggi della natura. Di ogni cosa sperimenteremo l'origine, comprenderemo perché riceviamo ogni cosa dal sistema di controllo dell'universo. A-A, Aleph-Aleph, questa è un'abbreviazione di Arich Anpin. Arich significa lungo in aramaico e volto di Anpin, quindi volto lungo, lungo di Kochma, qualcosa che ha in sé un sacco di Kochma. A-V-I, questa è un'abbreviazione di Abba e Ima, che significa padre e madre. Arich Anpin è solo Kochma e sotto Arich Anpin è un'altra forza. Vediamo quindi come le forze sono state costruite per qualità. Quindi sotto Arich Anpin ci sono padre e madre. Questi sono il padre e la madre che possiamo trovare nelle religioni. È preso dalla Kabbalah anche se non ne comprendevano il significato. Quindi iniziamo ora con la famiglia celeste. I punti di forza dell'universo, come sono collegati tra loro, perché riceviamo proprio come fanno loro, solo a un livello inferiore. Ogni cosa è connessa l'una con l'altra. Non esiste nel più basso, nulla esiste nel più basso che non esiste nel superiore, e nulla esiste nel generale che non esiste nel particolare. Mentre stiamo imparando a conoscere la famiglia celeste, il sistema di controllo dell'universo, allora impariamo anche come trattare e come funziona secondo quelle leggi dell'universo. Diventiamo parte di questa famiglia e attraverso questo otteniamo la stessa serenità, la stessa forza che hanno. Impareremo che Abba e Ima vivono insieme in assoluta serenità, mentre noi, il mondo intero, ha a che fare con i problemi degli uomini e delle donne. Non possono comunicare tra loro, o si dominano a vicenda, si distruggono a vicenda, o giocano una lunga vita di commedia. Ma essi non vengono nel modo giusto tra loro. È un esempio che ho citato prima, può essere un esempio ordinario, ma è assolutamente spirituale. E come effetto collaterale impareremo anche a gestire con i nostri partner e altre persone. Dalla Kabbalah impariamo come dobbiamo fare questo e non le idee che sono legate giù nel tempo. Una donna è libera, un uomo è così, eccetera. 30 anni fa nessuno aveva queste parole in bocca. E non sappiamo quali rare idee legate al tempo ci saranno durante 50 anni. Nella Kabbalah impariamo cosa è giusto, quello che appartiene all'albero della vita, quello che il Creatore aveva piantato come semi nella creazione. E il nostro bramoso desiderio voga idee del nostro tempo, naturalmente c'è sempre in esso qualcosa dal sé interiore, progresso, che devi sapere, perché in ogni giorno c'è tuttavia progresso anche nel nostro mondo, perché il sistema di controllo funziona perfettamente. A dispetto di quello che stiamo facendo qui sulla Terra, il sistema di controllo funziona impeccabile. Quindi il secondo parzuf è Abba e Ima. La quarta frase inizia con le abbreviazioni Z-O-N, Zon. Questo è Zeyrampin e Malkut, Nukvach. Zeyrampin è un maschile parzuf inferiore e Nukvach è un parzuf femminile inferiore. Mentre Abba e Ima sono nel grado superiore, in assoluta serenità, armonia, perfezione, eternità e unione, così sono Malkut e Zeyrampin a volte nella perfezione e a volte no. La perfezione è come una potenza maschile e femminile. Entrambi sperimentano 10 sfirot e stanno sulla stessa altitudine. Proprio come nel nostro mondo, se un uomo vuole una relazione perfetta, no, lui vuole, ma merita, che sua moglie deve essere alla stessa altezza, lui deve darle la possibilità di venire allo stesso livello. Non hanno bisogno di condividere le stesse visioni. Lei deve crescere nel suo adulterio nello stesso modo che lui cresce nel suo. Con uomo e donna intendo anche partner che hanno quel ruolo, quindi non solo uomo e donna. Zeyrampin e Malkut sono anche due parzufim, due punti di forza dell'universo. Arikampin è la forza più alta del mondo, Azilut. Tutte le vitalità provengono da questo mondo. Poi Abba e Ima, che sono due, e sotto di loro ci sono Zeyrampin e Malkut, sono anche due e che danno un totale di 5. Noi sperimentiamo quelle 5 forze. Vado oltre perché non voglio camminare davanti ai piedi del mio maestro. Dobbiamo seguire sempre il suo sentiero. Quarto frase, la seconda parola. Il Keter è stato chiamato nel nome di Arikampin. Asulam ci dice che ci sono 5 sfirot, Keter, Kochmah, Binah, Zeyrampin e Malkut, e quelle emanazioni di luce fanno 5 parzufim, 5 unità di forza, Arikampin, Abba e Ima e Zon. O parliamo di Sfirot, o parliamo di Parzufim, o parliamo dei nomi del Creatore, o parliamo dei caratteri. È tutto lo stesso, solo differenti dalla forma, una classe diversa, ma è tutto lo stesso. Sono tutti nomi del Creatore. Arikampin è il Parzuf più alto, la più alta unità di quelle forze, e questo è anche Keter. C'è un passaggio da uno all'altro. Keter e anche Arikampin. Kochmah e Binah sono chiamati con il nome Abba e Ima. Come emanazione di luce è una sfira, ma quando è già formata a Parzuf con l'essenza di Kochmah, allora è Abba. Abba, padre, è saggezza, e Binah è Ima, madre, è intuizione, comprensione. Questo non significa che l'uomo ha solo saggezza e le donne intuito, assolutamente no, questo è ciò che ognuno deve avere in sé. La Kabbalah parla solo di un essere umano. Tutte queste forze sono solo in un uomo. L'abbreviazione significa Tiferet. Tiferet e Malkut sono chiamati con il nome Zerampin e Nukvach. Come Sfirà è Tiferet e come Parzuf è Zerampin. Una Sfirà ha una certa qualità in sé, ma il Parzuf ha molte qualità. Ad esempio, Zerampin ha in sé destra, sinistra, davanti, dietro, sopra e sotto, proprio come nel nostro mondo. Malkut è la quinta Sfirà, è Nukvach. Malkut significa che lei sperimenta tutte le sue Sfirò in se stessa. Lei è poi tagliata fuori da Zerampin. Quando lei è ancora aderita a Zerampin, all'uomo, allora lei è chiamata Nukvach. Lei è poi come se fosse il suo lato femminile. Anche nel nostro mondo, se una donna è interiormente aderita al suo uomo, allora lei è un'appendice dell'uomo. Uno non capisce di cosa si tratta se c'è scritto che un uomo deve lasciare la sua famiglia, suo padre e sua madre, e che lui deve aderire a sua moglie e diventare un corpo unico. Zohar ce lo rivelerà. L'intenzione è che abbiamo delle rivelazioni in ogni lezione. Dallo Zohar stesso impareremo cosa è Hashem. Cosa accade nella sinagoga, nelle chiese, non ha valore se non è collegato con il sé interiore. Se non capisci qualcosa, quello non è un problema. Andiamo avanti un centimetro alla volta e lentamente la famiglia celeste verrà in vita in te. All'inizio è difficile perché non puoi dargli un posto in te stesso. Non hai kelim, perciò, per così dire, non hai una borsa dove puoi portare tutti questi messaggi. Ma leggermente la luce dello Zohar farà inosservato un solco dentro di te, causato dal tuo desiderio e attraverso la tua perseveranza, e poi improvvisamente fluirà da te stesso. Ogni cosa consiste da 5 e la Sefirà Tiferet consiste da 6. Dobbiamo quindi ricordare che ogni cosa consiste da 5 e non da 10. Ogni cosa consiste da 5. Abbiamo 5 dita. 5 dita dei piedi e dei fiori coltivati hanno 5 petali. Ci sarà mostrato che ogni cosa esiste come una piramide. Certo, siamo tutti cittadini con pari diritti, ma lo spirituale è una questione di piramide. Colui che lavora per il proprio sviluppo viene più in alto sulla scala. Lui o lei è colui che si avvantaggia della sua forza e così sale sulla scala, viene più in alto sulla piramide delle forze spirituali. Anche da gemme minerali hai la forma di una piramide. Ci sono gemme e semplici ciottoli e tu puoi trovare la piramide nel regno vegetale. Ogni cosa ha una sequenza orizzontale e una sequenza verticale. In ogni cosa puoi trovare il generale e il particolare. Quando abbiamo una pausa, la gente parla più forte con l'altro e ciò è comprensibile, perché più alto andiamo nell'apprendimento, più resistenza sperimenteremo e poi cercheremo di fuggire in una ordinaria chiacchierata. Quindi, essere consapevoli perché la cattiva inclinazione impara con noi e vuole trarre profitto da ciò. Come diciamo, il diavolo è sempre in ascolto. È per noi che non reagiamo ai suoi consigli. Come possiamo sapere quali sono i suoi consigli? Chi sta parlando con me? Il mio insegnante mi ha detto: se c'è qualcosa che sussurra nelle tue orecchie e tu non sai se è il tuo piccolo diavolo o la tua vera personalità che vuole ascoltare le leggi dell'universo e vuole raggiungere la realizzazione, se è quello che sta sussurrando nelle tue orecchie, non aspettare alcuno sforzo da te per fare qualcosa. Sai che viene dal diavolo. Viene dal tuo lato sinistro perché quel lato ti vuole rilassare. Perché? Poi può fare profitto da te. Dice allora che devi rilassarti, così lui può succhiare da te proprio come un pistone di sangue. Se devi fare qualsiasi sforzo, sempre più sforzo, allora sai che viene dal lato buono di te stesso, dal lato destro. Entrambi sono necessari, non è che dobbiamo ignorare il diavolo. Egli vuole distrarti, ma se lo superi cresci enormemente e se lo ignori usi meno della metà della tua potenza. Tu non vuoi vedere quel lato in te, ma ti rosicchierà. Per favore, Hashem non voglia, tu hai un problema. Perciò, nella pausa, c'è più e più fragoroso parlare perché vuole che tu esca da te, perché non può trarre profitto se sei occupato con lo spirituale. Hai appena ricevuto un sacco di santità dallo spirituale e poi nella pausa lui vuole che tu lo togli il più presto possibile. Essere consapevoli per tutto il tempo anche sulla via del ritorno a casa, in treno o in macchina. Non parlare molto, perché poi vuoi dare così volentieri, non richiede alcuno sforzo da te. Hai ricevuto così tanto dallo Zohar, vuoi parlare con tutti, vuoi dare aria ai tuoi sentimenti e quello viene dal tuo lato sinistro. Parlando tu svuoti il tuo cuore, tu rifiuti ciò che hai appena ottenuto, quindi presta attenzione alla tua bocca. Non parlare troppo, nemmeno con il tuo partner. Fai molto e parla poco. Pagina 1, colonna di sinistra, quella prima dell'ultima regola del primo paragrafo, tra parentesi. Se qualcosa sta tra parentesi, si riferisce a qualcosa. Non facciamo nulla con quello. Ogni partecipante al corso imparerà e capirà gradualmente. Non temere se non puoi apprendere, alla fine verrà nel tuo cuore. E sappi che il segreto, essenza, ma letteralmente sod, significa segreto. Dei 7 giorni del principio, l'atto di creazione. Quello è il segreto, abbreviazione U-Sod. Di 2 parzufim, Zerampin e Nukvah di Azilut. I 7 giorni nel quale il mondo è creato, quello è Zerampin e Nukvah del mondo Azilut. Ci sono 4 mondi, 4 strati di esperienza dello spirituale. Nella spiritualità, nei livelli superiori dell'universo, là esistono 4 strati di forza e quelli sono chiamati mondi, olamot. Domanda partecipante al corso. Perché non 5? Esiste anche il 5. Dal corso precedente, dalla lezione 39, abbiamo spiegato che il primo mondo costruito diventa Adam Kadmon. Ma questo mondo non lo contiamo perché la nostra origine è del secondo mondo. Adam Kadmon è troppo sottile per noi, non riceviamo nulla da questo mondo fino all'arrivo del Messia. Per questa ragione il nome eterno dell'Eterno ha anche 4 caratteri. Riceviamo luce da 4 mondi. Così dice... I 7 giorni della creazione sono Zerampin e Malkut. Abbiamo detto che ci sono 5 sfirot, Keter, Kochmah, Binah, Tiferet e Malkut. Tiferet è anche Zerampin come Parzuf e Malkut è Nukvah. Zerampin consiste di 6 sfirot, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod e Malkut, che insieme sono 7. Quello è ciò che è creato. Così nell'Azilut ci sono 5 parzufim. Arikampin, volto lungo, che è Kochmah, una forza nell'universo che è Keter. A EA è un parzuf e Keter è una sfira sotto AA. I suoi prodotti sono Abba e Ima. Risposta sulla domanda del partecipante al corso. Nulla può sorgere senza una ragione. La Sefirah è un'emanazione di luce e nei Parzufim ci sono già punti di forza costruiti. Quello che stiamo imparando è logica. Non può sorgere nulla senza una ragione. C'è sempre una ragione e conseguenza. Se vedi qualcuno sul palco, ad esempio, e sta facendo qualcosa di spontaneo, o un'altra persona sta agendo in modo molto spontaneo, sappi che la spontaneità sorge sempre attraverso un'enorme disciplina dall'interno, come risultato da una ragione e conseguenza. La conseguenza è quindi il seguito della ragione. Stiamo andando a fare quello con lo Zohar, perché nulla può sorgere senza qualcosa. Rimane comunque un po' sconosciuto, ma stiamo andando a lavorare al proprio sé interno, ciò che ora è un sentimento indefinito. Dall'interno costruiamo una nuova costruzione, e quello è cosa lo Zohar ci insegna. E non le cose che hanno fatto il loro corso, non rivendicato, che noi nel resto della nostra vita non sappiamo quale forza sta funzionando in noi. Non è quello un modo di vita miserabile? Dobbiamo tornare ancora e ancora e ancora, l'anima quella che non hai realizzato, e poi venire di nuovo, e ancora una volta, miseria, finché tu non hai realizzato ciò che è scritto nello Zohar. Nella Torah è scritto che ogni carne vedrà Hashem, sperimenterà le leggi dell'universo e poi non è necessario insegnarci l'un l'altro la Torah. La nostra generazione è favorita a ricevere lo Zohar. Siamo la prima generazione che mai è così vicina all'arrivo del Messia. È un privilegio per noi ricevere la Torah. Ricevere significa che la ricevi, che vuoi riceverla, e non come un bambino che prende il cibo, quello che la madre gli dà. Non abbiamo scelta, ma tuttavia dobbiamo desiderarlo. Nelle ultime generazioni c'erano solo pochi individui che hanno ricevuto la Torah, ma non la massa. Le persone ordinarie e religiose non hanno bisogno della Torah. Essi richiedono solo regole. Anche quello è necessario. In un certo modo siamo super religiosi. Come una persona religiosa, un seguace di una religione che lavora con mani e piedi, quando quest'anima lascia la terra, allora quest'anima ritorna alla sorgente. Ognuno ha la propria sorgente, ma tutto in uno. Allora il creatore chiede: che cosa hai fatto quando eri sulla terra? Solo sulla terra abbiamo la possibilità per la correzione. L'anima vede allora quello che lui non ha corretto e poi risponde: sono sempre andato alla sinagoga, in chiesa, ho dato molto, ho visitato molti pazienti, ho dato soldi ai poveri, eccetera. E poi a questa persona gli sarà chiesto: è bello, ma che cosa stai facendo qui? Devi andare da quello che hai servito. Hai servito la religione, la chiesa, liberali o ortodossi, o il Hassadim, chiedi a loro per una ricompensa perché li avevi serviti. Io non ti conosco. Poi, naturalmente, questa persona è delusa e vede che ogni cosa che ha fatto è stato per il suo proprio bene, per il suo proprio onore, per i suoi figli, ma non per il Creatore, e quello è ciò che è sbagliato. Non puoi imparare lo Zohar per te stesso. Più tardi, quando tieni più sentimento per lo Zohar, il Creatore ti amerà. Questo significa che tu in qualità corrispondi a Lui. Quando un bambino fa cose buone, allora il padre lo amerà. È lo stesso qui. Dobbiamo fare ogni cosa per Lui e non per noi stessi. Allora otteniamo la vita e quello è il lavoro. E non che desideriamo avere sempre di più e di più. il fuori ci ingannerà sempre. Quindi ci sono quattro mondi. Per noi Azilut è importante perché da lì viene Kochma, la luce del creatore. Zerampin e Nukva sono insieme Zon, sono la coppia maschile e femminile inferiore del mondo Azilut, da dove proviene il governo dell'universo. La Torah inizia con i sette giorni dell'atto di creazione. Zain Yemei Bereshit. Che cosa questo significa? Lo Zohar lo dirà lentamente a noi. Sentiamolo. Un altro nome per la Sfirah Keter è Parzuf A. Kokma e Abba, padre, Binah e Ima, madre. Tiferet è Zerampin e Malkut è Nukvah. Noi trattiamo qui il mondo di Azilut. Il mondo Azilut era già stato creato prima che ci fossero persone. Sotto Olam, il mondo, Azilut sono stati costruiti i mondi. Bria, Yetzirah, Asiya è il nostro mondo. Tutto esiste così, anche il mondo Adam Kadmon. Cos'è stato poi creato? Zerampin ha sei in sé e Nukva è uno. Insieme sono i sette giorni dell'atto di creazione. Ogni cosa che è sopra viene naturalmente giù. Bria viene dalla parola creare. Ogni cosa che è costruito sotto Zerampin e Malkut, quello è il mondo, Olam. I sette giorni dell'atto di creazione vengono quindi da Zerampin e Malkut. Questo è ciò che Yehuda Ashlag ci sta dicendo. Forse noti già che questo è uno studio, una scienza spirituale, e che non ha niente a che fare con la religione, assolutamente no. Le leggi dell'universo non hanno nulla a che fare con la religione. Essere religiosi non è per quello che è stato creato il mondo, lo capisci? Ci sono due punti di forza, esiste destra e sinistra, la misericordia e la severità. Questo è il mondo, lo troviamo già in Tiferet e Nukva. Tutti noi impareremo la causalità, nel nostro sentire sembra tutto ignoto, infinito. È l'intenzione di penetrare l'infinito, rimane sempre infinito perché il creatore è infinito. Che bene può venire da qualcosa che è finito? Conosci qualche oggetto che è finito e da dove proviene qualcosa di buono? Anche nell'universo la luce viene solo da Ein Sof e non da Zerampin o Malkut. Essi passano solo le forze di luce dell'infinito. Tutto viene da Ein Sof. Tutti questi punti di forza sono solo fodere, grossolanità della luce. Ciò è certamente necessario perché senza quegli occultamenti noi non possiamo esistere. Ein Sof è la luce che discende da Atzmutò, la sua essenza. C'è, cioè vale a dire, ancora qualcosa sopra il creatore stesso. Il creatore significa il nome della forza, nella sua qualità di creare il mondo. Non possiamo comprendere la sua essenza. Comprendiamo l'idea della creazione e che è uscita dalla sua essenza. Il progetto della creazione è di dare piacere alle sue creature. Ma cosa significa dare piacere? Ciò che comprendiamo come piaceri è egoismo e non ciò che il creatore intendeva. Dobbiamo realizzare che dobbiamo ricevere solo per dare. Zohar ce lo insegnerà senza alcun calcolo dalla nostra testa. Secondo comma, seconda e terza frase. Che ci sono in loro, in Zerampin e Nukva di Azilut. Sette sefirot, Ka, Ga, Ti e Ne, H, Y e Malkut. Queste sono le abbreviazioni di Chesed, Gvura, Tiferet e Netzach, od yesod. Canal, questa è un'abbreviazione di kanitzkar lahel. Spesso incontreremo questo, significa come è stato detto sopra. Senza alcuno sforzo del nostro cervello impareremo tutto questo, proprio come un bambino impara dalla madre. Questo è un albero, una casa. Un bambino vuole pazientemente imparare, così chiede alla madre cos'è questo e cos'è quello. Dobbiamo mostrare la stessa impazienza per imparare lo Zohar come il bambino. Che in questi scritti dell'atto di creazione è stato spiegato come padre e madre, le due forze, il parzufim di Atzilut, i quali sono Chochmah e Binah, hanno emanato, ed Ei ha prodotto Zerampin e Malkut. Se qualcosa è emanato nel mondo Atzilut, allora diciamo radice Atzilut, emanazione e quindi da Atzilut. Se qualcosa è portato da Briah, allora diciamo creare, e da Yetzirah diciamo forma, e da Asiyah sta facendo. Diventa più e più ruvido, creare è più alto che formare, e formare è più alto che fare qualcosa. Un architetto, per esempio, ha un'idea, e un altro dà forma adesso, e un altro esegue. Quindi possiamo trovare il sistema piramidale anche nel nostro mondo. Prima c'è l'idea, poi la creazione e poi il lavoro con le nostre mani e piedi. 7 giorni della creazione, così tutte le qualità del mondo che sono state create, Zerampin e Nukvah, sono portate da forze che chiamiamo Abba e Ima, dall'inizio della loro origine, da Zerampin e Nukvah, alla fine della loro piena crescita, come si comportano loro stessi. Per 6.000 anni, perché la creazione è creata per 6.000 anni, ma possiamo accorciarla. Abba e Ima hanno prodotto Zerampin e Malkut affinché si comportano secondo quelle regole del padre e della madre, fino alla fine della creazione. Ed è ulteriormente spiegato qui in Bereshit di Zohar.